You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. La voce delle sirene, con Antonietta La Terza. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Draghi Locopei è un gioco di parole da cui io ne ho tratto un modo di fare poesia. Fiat Lux, Fiat Tenebre. Salmi affumicati, salmoni apocrifi. Kamikaze risorto, salta di gioia. Ribelli alieni, scappati da un buco nero, vanno a culo col mondo. Tromba spagnola trovata in autobus. Scopa vecchia finita in strada. Ex catechista prega Gloria di dargliela subito. CD Vergine, DJ Maria. Aspirante Madonna fischiata dal parroco, cambia genere. Madonne fiorentine al sangue preferiscono la pace. Madonne gotiche intrappolate nell'organo vibrano in coro. Madonne scansionate dal vento cadono dalle nuvole. Madonna svampita perde la croce. Madonna ribelle fugge dalla cornice. Fiat Lux, Fiat Tenebre. Non più fantasia, ma realtà reale. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista può contattarmi al seguente indirizzo: radionotizie@hotmail.com. Il 21 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Televisione, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ricorda il giorno in cui nel 1996 si è svolto a New York il primo World Television Forum, evento che ha riunito i principali rappresentanti del mondo televisivo per discutere degli sviluppi presenti e futuri del mezzo. In quell'occasione venne redatto un documento ufficiale in cui si affermava l'importanza della televisione come mezzo essenziale per la democrazia, la diffusione della cultura, la pace globale, l'aggregazione sociale e la libertà dell'informazione. Era il 1954 e sono passati 66 anni dal momento in cui la televisione entrò nella vita degli italiani, rivoluzionandola radicalmente. Oggi, nonostante la diffusione di nuove tecnologie legate ad Internet, la televisione continua ad esercitare la sua funzione e ad avere la sua importanza nella vita di milioni di persone per quanto riguarda l'intrattenimento, la cultura e l'informazione. L'educazione e l'alfabetizzazione sono state le prime funzioni che la televisione ha svolto. Tra il 1959 ed il 1968 il maestro Alberto Manzi condusse la trasmissione dal titolo Non è mai troppo tardi, un programma di insegnamento elementare che avrebbe aiutato quasi 1,5 milioni di italiani a conseguire la licenza elementare. Solo negli anni Ottanta arrivò la TV analogico ed alla TV di Stato si aggiunsero le TV commerciali come Canale 5, Rete 4 e Italia 1, che cambiarono le regole ed introdussero la pubblicità all'interno delle trasmissioni. La rete, l'avvento dei social network e l'evoluzione delle tecnologie ha reso possibile una comunicazione personalizzata. L'anno 1954 segnò il lancio di Wonderful World of Color della Disney, un programma di varietà adatto alle famiglie che mescolava cartoni animati iconici, fiction e programmazione di documentari. Nel 1960 il primissimo dibattito presidenziale televisivo tra il vicepresidente repubblicano Richard Nixon ed il suo sfidante, il senatore del Massachusetts John Ford Kennedy. Nel 1969 lo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Nel 1989 la caduta del muro di Berlino. Ma non solo. La televisione ci ha fatto vivere e rivivere anche l'orrore della devastazione delle guerre. Più recentemente le tragiche immagini della pandemia sanitaria del Covid-19 che sta colpendo il mondo intero. Ma ci ha fatto vivere anche le grandi emozioni delle manifestazioni sportive come le Olimpiadi e i campionati del mondo di calcio. Chi volesse ricevere notizie sul radioascolto e volesse contattarmi per avere risposte su alcune domande può scrivermi al seguente indirizzo di posta elettronica radionotizie@hotmail.com oppure per posta ordinaria Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B 30031 Dolo, Venezia. Un saluto a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Rema nella direzione giusta. Scegli letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Con noi è meglio. Letteralmente Radio Yoga Network presenta Archivio Bologna.

Bene, Brunella, io ti ringrazio intanto e ti, come dico, ripeto, ti rinnovo l'invito, perché dovremo sicuramente riprenderemo in mano e approfondiremo questo tema e lo terremo monitorato, perché insomma, la salute e la sanità è una cosa che sappiamo bene e molto, molto, sta molto a cuore alla cittadinanza. Intanto ti ringrazio. E quindi e a prestissimo, buon lavoro e buone cose. Grazie. E ti aspettiamo anche qui in studio quando vuoi, Brunella. Noi No, è un'opportunità che cogliamo volentieri, perché come dici tu è un argomento sensibile che coinvolge la salute e la cura del cittadino, insomma, assolutamente. Ok, Brunella, un abbraccio. Ciao, grazie, buona serata. Un abbraccio anche a voi, grazie mille, buona serata. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. È questa. Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia non c'è paragone. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Ed eccoci qua per un'altra puntata di Fuori dal Tempo. Come avete sentito dalla sigla, una selezione dai programmi di RKC del nostro archivio. E sono tanti, veramente sono tanti i programmi fatti dai devoti di Krishna per RKC, per voi cari amici ascoltatori che da anni ci ascoltate ormai. RKC, questa radio, la radio del movimento Hare Krishna. Il movimento Hare Krishna è un movimento di spiritualisti, di persone che hanno intrapreso la via del ritorno a casa. A casa dove? Ma da Dio, da Krishna naturalmente. Molte persone si chiederanno, ma come fate a sapere prima di tutto che siamo sulla strada per ritornare a casa e poi a casa dove? A casa da chi? Chi è questo Dio? Chi è questo Krishna? Bene, i devoti di Krishna non si sono sognati le cose che vi hanno detto per tutti questi anni, ma traggono questa conoscenza dagli antichi testi, i testi più antichi che esistono sul pianeta, e grazie alla misericordia degli Acharya, Acharya significa coloro che insegnano con l'esempio, Dicevo, grazie alla loro misericordia, ultimo dei quali Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, abbiamo potuto avere questi libri tradotti, proprio tirati fuori dal segreto della lingua sanscrita, e quindi abbiamo potuto apprendere questa conoscenza, altrimenti a noi così celata, segreta. E in questo modo sappiamo sia dov'è la nostra casa, sia qual è la nostra casa, chi siamo noi, anche com'è fatta questa casa, com'è questo pianeta, questo universo, e com'è anche il nostro universo, perché bisogna dire che noi stessi non solo non siamo a conoscenza di com'è l'universo spirituale, di com'è Krishna, Dio, la persona suprema, ma più delle volte non sappiamo nemmeno chi siamo noi. E come effettivamente sia fatto questo universo dove noi viviamo, di cosa sia formato, eccetera, eccetera. Questi testi ci dicono anche com'è fatto Dio, com'è la sua forma, perché Dio ha una forma. Se noi siamo persone, anche Lui è una persona, la persona suprema. Nelle scritture è ben descritto questa persona in questo modo noi possiamo ritrovare l'antica, ormai antica, attrazione verso di lui. La Bhagavad Gita anche ci dà una spiegazione di come possiamo concepire, come tentare di concepire Dio, la persona suprema. Per questo sentiamo proprio da uno spezzone di uno speciale Italia di Krishna Chaitanya Das qualcosa su Dio, su Krishna. Descrivimi nei particolari, ti prego, i tuoi poteri divini con cui penetri tutti questi mondi e in essi dimori. Come devo meditare su di te? In quale forme contemplarti, o Signore Beato? Parlami ancora nei particolari delle tue potenze e delle tue glorie, o Janardana, poiché non sono mai sazio del nettare delle tue parole. Il Signore Beato disse: ti descriverò dunque le mie glorie divine, o Arjuna, ma soltanto le più importanti, poiché infinito è il mio splendore. Sono l'anima suprema situata nel cuore di ogni creatura, o Gudakesha. Sono l'inizio, la metà e la fine di tutti gli esseri. Tra gli Aditya io sono Vishnu, e tra le sorgenti luminose il sole radiante. Tra i Marut sono Marici, e tra le stelle sono la luna. Tra i Veda sono il Sama, tra gli esseri celesti sono Indra, tra i sensi sono la mente, negli esseri sono la forza vitale, la coscienza. Tra i Rudra sono Shiva, tra gli Yaksha e Rakshasa sono il signore delle ricchezze, Kuvera. Tra i Vasu sono il fuoco, Agni. Tra le montagne sono Meru. Tra i sacerdoti, o Arjuna, sappi che io sono il capo, Brihaspati, il signore della devozione. E tra i generali sono Skanda, il signore della guerra. Tra le acque sono l'oceano. Tra i grandi saggi sono Bhrigu. Tra le vibrazioni sonore sono Om, la sillaba trascendentale. E tra i sacrifici il Japa, il canto dei santi nomi. Tra le masse incrollabili sono l'Himalaya. Tra gli alberi sono il fico sacro. E tra i saggi e gli esseri celesti, Narada. Tra i Gandharva, cantori degli esseri celesti, sono Citrarata, e tra le anime realizzate il saggio Kapila. Tra i cavalli sappi che io sono Uccisrava, che uscì dall'oceano e nacque dal nettare dell'immortalità. Tra i nobili elefanti sono Airavata, e tra gli uomini il monarca. Tra le armi sono il fulmine, e tra le mucche la Surabi, dal latte abbondante. Tra i procreatori sono Kandharpa, il dio dell'amore, e tra i serpenti il re, Vasuki. Tra i Naga, serpenti celesti, io sono Ananta, e tra le divinità delle acque, Varuna. Tra gli antenati sono Ariyama, e tra gli amministratori della legge sono Yama, il signore della morte. Tra i demoniaci Daitya io sono il fervente Pralada, e tra gli oppressori il tempo. Tra le bestie sono il leone, e tra gli uccelli Garuda, che trasporta Vishnu. Tra i purificatori sono il vento, e tra coloro che portano le armi sono Rama. Tra i pesci sono lo squalo, e tra i corsi d'acqua il Gange. O Arjuna, di ogni creazione sono l'inizio e la fine e anche la metà. Fra tutte le scienze sono la scienza spirituale dell'anima, e dei logici sono la conclusione, la verità finale. Tra le lettere sono la A, e tra le parole composte sono la parola doppia. Sono anche il tempo inesauribile, e tra i creatori sono Brahma, i cui volti multipli guardano ovunque. Sono la morte che tutto divora, e anche la sorgente di tutto ciò che verrà. Nella donna sono la fama, la fortuna, l'eloquenza, la memoria, l'intelligenza, la fedeltà e la pazienza. Tra gli inni sono il Brihat Sama, che si canta per Indra, e tra i poemi la Gayatri, cantata ogni giorno dai Brahmana. Tra i mesi sono novembre e dicembre, e tra le stagioni la primavera fiorita. Tra le truffe sono il gioco d'azzardo, e sono il fulgore di tutto ciò che risplende. Sono la vittoria, l'avventura e la forza del forte. Tra i discendenti di Vrishni sono Vasudeva, e tra i Pandava Arjuna. Tra i saggi sono Vyasa, e tra i grandi pensatori Ushana. Tra le punizioni sono la verga, e tra coloro che cercano la vittoria sono la moralità. Delle cose segrete sono il silenzio e del saggio la saggezza. Inoltre, o Arjuna, sono il seme che genera tutte le esistenze. Niente di ciò che è mobile o immobile esiste senza di me. O potente vincitore dei nemici, le mie manifestazioni divine non hanno limiti. Ciò che ti ho rivelato non è che una minima parte della mia grandezza infinita. Tutto ciò che è bello, potente, glorioso, sappi che scaturisce da un semplice frammento del mio splendore. Ma a che servono, Arjuna, tutti questi particolari? Con una semplice scintilla della mia persona, io penetro e sostengo l'universo intero. Questo che abbiamo ascoltato è il decimo capitolo della Bhagavad Gita, si chiama Le glorie dell'assoluto. Chi parla è Shri Krishna, Dio, la persona suprema. Krishna si presenta con i suoi non limiti e con le sue infinite possibilità, che comunque sono sempre scelte e precise. Non è mai soltanto una montagna il Signore Supremo, è il Monte Meru. Delle cose segrete, io sono il silenzio. E come può esserci segreto senza silenzio? Il meglio dell'esistenza, quanto noi sappiamo pur con la nostra percezione limitata, trovare e registrare e farne elemento di sintesi per la nostra esperienza, quel meglio viene sempre e soltanto dalla persona suprema. Anche il peggio viene dalla persona suprema. Di tutte le cose sono il principio, la fine e anche il mezzo. Molti si domandano, ma com'è possibile che Krishna, Dio, la persona suprema, che Dio, di cui si immagina soltanto capacità di produrre il meglio in assoluto, sia capace o desideri o comunque ponga come condizione la sofferenza, la tristezza, l'ingiustizia, le vergognose realtà che qua e là per il mondo molte persone si trovano a vivere a danno di altri? Perché Dio permette tutto questo? Queste sono alcune tra le domande che più sinceramente e naturalmente nascono nel profondo delle persone quando si avvicinano, pur con dubbio, forse, a volte, dopo diverse esperienze che non hanno portato soddisfazione, in senso di ricerca conoscitiva, all'idea della spiritualità, della vita spirituale, della religione. Conoscere e amare Dio, questa è la religione. Nient'altro, soltanto questo. È una persona Dio, per amarla va conosciuta. Per questo che noi senza timore poniamo un'enfasi particolare sulla proposta di questi grandi classici dell'India. Per amare bisogna conoscere. Al giorno d'oggi l'umanità non si trova più nell'ignoranza, in un certo senso. Ha compiuto notevoli progressi nel campo degli agi materiali, dell'educazione e dello sviluppo economico. Ma in qualche punto dell'organizzazione sociale esiste una falla, e per questo motivo scoppiano grandi conflitti, spesso anche solo per ragioni insignificanti. Abbiamo dunque bisogno di un'indicazione che ci permetta di realizzare l'unione degli uomini attraverso cui conseguire un fine comune nella pace, nella fratellanza e nella prosperità. Questa esigenza sarà soddisfatta da I grandi classici dell'India, opera culturale che mira alla rispiritualizzazione dell'umanità intera. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. A proposito di tempo, Krishna dice: tra gli oppressori sono il tempo. Infatti, il tempo per chi non crede, non vuole credere all'esistenza di qualcosa di supremo, di più forte, di qualsiasi cosa di più forte di noi. Allora, il tempo. Nessuno può fermare il tempo. Il tempo sbriciola ogni cosa, fa finire ogni cosa. Krishna dice: io sono il tempo eterno, sono la morte che tutto divora. Quindi anche per i più increduli, alla fine dovranno piegare la testa davanti al tempo, davanti alla morte. Eh sì, Krishna è il tempo. Ma i devoti di Krishna vanno fuori dal tempo, perché hanno un contatto, ottengono il contatto, hanno ritrovato e lo mantengono, con l'universo spirituale, che è veramente una, così come sua qualità, una delle sue qualità è l'eternità. Ed è anche una nostra qualità come anime, come anime spirituali eterne. E questo, una volta che, diciamo, con la coscienza di Krishna si comincia a capirlo, dà una grande felicità. E ormai siamo tanti, sono tante le persone in questo mondo materiale che stanno stancandosi di essere qui. Persone di tutti i tipi, persone che vengono dalle più diverse estrazioni sociali, culturali. E abbiamo anche molte persone famose, cosiddette famose. Srila Prabhupada diceva che è molto importante che la gente sappia che le loro paladini, le persone che sono ammirate, così, che hanno successo, che la gente sappia che le stesse persone anche sono attratte dalla coscienza di Krishna. Bisogna dire che tra i giovani sono molti i cantanti, gli attori che si interessano di vita spirituale e si sono avvicinati alla coscienza di Krishna. Sono tanti anche che professano questa yoga, Bhakti Yoga, la yoga dei devoti di Krishna. E sentiamo a questo proposito, sempre dallo speciale Italia di Krishna Chaitanya, alcune interviste con questi personaggi famosi. Tavolo, incontriamo un altro vecchio conoscente e amico, ritentiamo il gioco, vediamo un po' dalla voce qualcuno capisce chi è. Prego, microfono libero. Vedo che ci sarà molto da fare, e comunque è un bel modo per esprimere l'energia in qualche modo, no? Che penso che circoli qui, che sento che circola qui, anche se nessuno si sa spiegare effettivamente perché sta qui. E penso tutto sommato sia un po' la voglia, il desiderio di trovarsi. È un po' di vedere anche cosa succede, insomma. Ecco, lui che sta parlando si chiama Alan Sorrenti, voi molti lo ricorderanno, moltissimi, anzi tutti quelli perlomeno che sono della mia e della sua generazione. Alan Sorrenti, un cantante di chiara fama. Che cosa l'hai già detto, non si sa bene che siamo qui a fare, siamo qui a vedere cosa sta per succedere. Io ti faccio questa intervista per un pubblico molto particolare, il pubblico di questa radio, Radio Krishna Centrale, no? Che ha degli interessi così abbastanza precisi, indirizzati su un certo tipo di ricerca esistenziale, filosofica, spirituale, no? Insomma, gente che a un certo punto magari non ha capito niente, però ha capito una cosa, che c'è da capire di più. No? E' gente che in un modo o nell'altro vive ancora un momento di ricerca personale molto intenso, anche perché tutto sommato pensa questa gente che ascolta questa radio, che vive questo tipo di esperienze, che a meno che non si viva una ricerca del genere, tutto diventa un attimino così, privo di significato, di valore. Le cose si sono viste, tante cose si sono viste, tante si sono vissute, tante si sono provate, alla fine che cosa resta veramente, no? Qual è la tua posizione rispetto, non voglio buttare dei paroloni grossi adesso, seduti per terra, ma in effetti questi sono i temi di cui noi ci occupiamo, il tempo, lo spazio, la vita, la morte, la felicità, il dolore, no? Dove ti senti, a che punto del viaggio? Allora, a questo punto è necessaria e doverosa una precisazione. Avrete notato la prepotente presenza di quello che potremmo chiamare un suono d'ambiente. Il suono d'ambiente è un grande teatro di posa degli stabilimenti cinematografici della Dear Film sulla via, quale via era? Ma non ricordo, una delle tante vie che intorno a Roma vanno lì. Scusate romani che siete in ascolto, ma io, un milanese di estrazione e di nascita, anche se ben consapevole. Poi dici, ma guarda, questo è un devoto di Krishna che dice che è un milanese. Vabbè, insomma, sono nato lì, conosco meglio la città di Milano. Ebbene sì, conosco meglio la città di Milano. Comunque, su questa via Nomentana, ecco, sulla Nomentana, all'angolo della Nomentana, la Dear Film, rilevati questi studi dalla RAI, che evidentemente così, con questa sua mossa, segna la vittoria del mezzo televisivo sul mezzo cinematografico. Molti studi di posa cinematografici non lavorano perché il cinema necessariamente è un po' in crisi. Comunque, ecco, in questa scena, tecnici, luci, suoni, effetti, prove, ospiti, movimento, confusione, rumore di fondo, brusio, musiche, si registrava appunto questa puntata televisiva di un programma che si chiamava Cari Amici, condotto da Lorenzo Arbore, che celebrava il sessantennale della della radiofonia in Italia. Alan Sorrenti, abbiamo fatto una domanda, abbiamo spiegato chi siete voi che state ascoltando, il pubblico di Radio Krishna Centrale, e lui ci fa adesso la sua risposta. Vediamo un po' cosa dice. Io mi riserverò dopo di fare un commento e di farvi ascoltare. Nel frattempo, per farvi capire meglio o ricordare meglio chi è Alan Sorrenti, pensavo di farvi ascoltare quella che probabilmente è stata la sua il suo successo più noto, anche se non è che questo successo testimoni veramente quello che lui ha fatto e sta facendo ancora, perché diciamo che il successo più grande l'ha avuto con un pezzo decisamente commerciale, in napoletano, appunto. Tra l'altro lui è di Napoli, quella famosa "Dicite in giallo voi", diteglielo voi, che ha fatto veramente il giro d'Italia nelle classifiche, anche se non è sicuramente la cosa migliore che ha fatto. Lui è stato anche un cantante di impegno e di ricerca, ma vediamo se vi ricordate questo suo pezzo per capire meglio di chi stiamo parlando. Dici tancella sta compagna vostra, caccia perduto sonne a fantasie, capenza sempre. Questa è sempre RKC, Radio Krishna Centrale. Insomma, una canzone che noi diremo chiaramente in illusione. Dice già la voi a sta compagna vostra. È una storia d'amore, c'è un solito triangolo classico, lui, lei, che è quella che, di cui il terzo che sta cantando si è innamorato, come se la vita fosse tutta lì da riempire con lo spazio di una passione, con lo spazio di una storia d'amore, con qualche centimetro quadrato di pelle che si può più o meno, perché no, toccare. Spansajam, toccare la pelle di qualcun altro, questo nei Veda è detto essere quello che appare la più grande gratificazione, il più grande miraggio di piacere. Pochi centimetri quadrati di piacere non bastano. Ricci d'angelo che dovrebbe cantare Hare Krishna. Comunque, a questo punto forse avrete capito di chi stiamo parlando, di Alan Sorrenti, E andiamo avanti a sentire la sua risposta alla nostra domanda su, dopo aver presentato il pubblico di RKC, cosa aveva da dire lui a proposito di spiritualità, a che punto nella sua vita si trova con la sua esperienza, che ricerca sta vivendo, ma che sta facendo, insomma, adesso, ora, il nostro Alan Sorrenti, sentiamo un po' che risponde. Penso di aver iniziato come te, con aria, volo magico, spinto da un'unica ricerca che non aveva niente a che vedere con la tecnica e né con un pensiero filosofico. In fondo io non pensavo di seguire una linea precisa, era l'istinto che mi portava. Poi penso che in qualche modo ho voluto cambiare questa strada, in qualche modo ho voluto vedere altre cose per poter dire sì, forse era questa l'unica strada, ciao. E in questo clima di meeting, no, generale, ciao sono frequenti. Ed è bello dirsi ciao perché finalmente dopo tanto tempo ritorniamo a dirci ciao. Penso che questa è in fondo la scoperta che ho fatto ora, perché in fondo è una cosa abbastanza presente questa, di tornare a dire come riesco a prendere, come riesco a spiegarmi le cose che ho fatto, come riesco a spiegarmi le esperienze che ho fatto. Non basterebbe neanche questa giornata per poter spiegare tutto e spiegare dove sto in questo momento. Sostanzialmente la ricerca non è finita, continua. Anzi, penso che sto vivendo il momento di rinascita. Sto rinascendo di nuovo ed è molto duro. Più duro di quanto pensassi. Credi alla reincarnazione? Sì, credo che non abbiamo solo questa vita, non abbiamo solo questa chance. E questo in fondo ci fa sentire meglio. E soprattutto il centro dell'esistenza si sposta, non è più il nostro io, ma comincia ad essere qualcosa di più. E questo mi è entrato dentro. Esatto. In accordo all'antica conoscenza dei Veda, la persona non è il corpo, ma è un essere spirituale eterno che solo per una serie di circostanze si trova ad abitare e a viaggiare dentro un corpo, che è come un vestito, come un'automobile che puoi cambiare per entrare in un altro, però l'individualità, la persona resta eternamente viva, non c'è morte per la persona. E senz'altro un'altra cosa che mi affascina molto è cercare di non, cioè senz'altro non bisogna forzare niente, bisogna seguire il fiume che scorre. Bene, questo era Alan Sorrenti che crede alla reincarnazione, che sta rinascendo e dice questo ci, tutto sommato ci fa stare più tranquilli. Beh, insomma, questi sono i punti di vista suoi e noi non siamo molto tranquilli sull'idea della reincarnazione, nel senso che la reincarnazione non è il premio che per fortuna ci lascia ancora del tempo per portare a termine gli affarucci che abbiamo da sbrigare, no? La reincarnazione è davvero il premio, la reincarnazione è piuttosto il prezzo che dobbiamo pagare per avere speso male in sostanza la nostra vita nella forma umana. Questo è il grande insegnamento della cultura dei Veda, che ci ricorda che la vita umana non è fatta di istinto, lui parlava di istinto, la vita umana, la vita animale è fatta di istinto, la vita animale è quella che si muove spinta dalle grandi tensioni del mangiare, del dormire, del riprodursi, del difendersi. La vita umana è e deve essere, per chiamarsi umana, qualcosa di più. Quindi questo tipo di espressione sul sentimento, sull'istinto, sul seguiamo il fiume che scorre, ma quale fiume? Cioè, voglio dire, i fiumi sono inquinati e se segui il fiume che scorre ti ritrovi nella melma chimica di questa età che viviamo, che ha sporcato le acque, e non soltanto le acque, ha sporcato anche le acque interne, quei flussi di sottili e reali che fanno dell'esperienza umana una possibile vittoria nell'esistenza o purtroppo più spesso una clamorosa sconfitta. Thank you. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. State ascoltando? Fuori dal tempo. È veramente veramente bellissimo, eh? È veramente bellissimo sapere che siamo anime individuali, eterne, piene di conoscenza e di felicità. E si può vedere anche che tutti quanti sono effettivamente, tutti quanti, devoti di Krishna. È vero che ognuno si trova, anche se di pochissimo, ad un punto diverso sul sentiero della vita spirituale, sul sentiero del ritorno a casa. Però è vero, è verissimo, che ci siamo tutti, eh? Qualcuno così crede nella reincarnazione, è già qualcosa. Qualcun altro è vegetariano, sarebbe anche una logica conseguenza della reincarnazione, se i vegetariani sono strettamente legati. Qualcuno vede Dio in tutta la creazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sì, lo sappiamo tutti, è che siamo eterni servitori di Dio Krishna, la persona suprema. Ma così, per vedere meglio, sentiamo ancora un'altra intervista a un altro personaggio che tutti, quasi tutti sicuramente conoscerete. Ma sentiamo chi è. Abbiamo avvicinato qui, secondo la procedura lasciamo parlare lui per primo. Ecco, chiarissimo dalla voce, no? Paolo Giaccio, quindi nel tavolo di Per voi giovani non poteva mancare Paolo Giaccio, e come avrebbe potuto. Senti, la nostra è una radio, scusa, è una radio chiaramente di parte, la nostra è Radio Cristo Centrale, quindi i nostri ascoltatori, ai nostri ascoltatori piace sapere se la gente che avviciniamo ha una qualche relazione, esperienza, qualunque cosa da raccontare in relazione ai devoti di Krishna. Tu hai qualcosa da raccontare? Io ho tante relazioni con voi personalmente, che siete stati degli incontri tanti anni fa e poi vi ho ritrovati in queste vesti e forse con un'anima più ispirata. Ho tanti ricordi perché sono venuto a trovarvi a Firenze, no, vicino a Firenze, a Villa Vrindavana. Poi ci siamo visti ancora in giro, sono venuto a qualche festa. Però quello che mi piace, forse il motivo per cui poi vi ho anche chiesto di venire questa sera qui, è che in realtà mi piace dare quest'immagine di noi che abbiamo fatto un pezzo di strada insieme e poi dopo tanti anni, perché ne sono passati 10-15, ci ritroviamo tutti giovani uomini, in fondo ognuno con una direzione tracciata, alcuni felici, altri meno, però ancora con una possibilità di incontro. In realtà forse questo oggi, se possiamo dire, il segno di questo stare qui insieme. Siamo per strade diverse, andiamo tutti verso qualche cosa e su alcune cose ci troviamo completamente d'accordo, più forse sui contenuti che sulle forme, però l'importante è che possa continuare questo incontro a puntate. Ottimo. Paolo Giaccio ci ha appunto invitato a questa performance televisiva, qualcuno non l'avrà persa, sono sicuro. Chi ci ha visto danzare e cantare Hare Krishna sul palcoscenico insieme a Claudio Villa, che anche batteva le mani e si muoveva, anzi abbiamo una lunga intervista con lui anche per voi in serbo che arriverà in una delle prossime puntate. Lo dicevamo, abbiamo anche un'intervista raccolta quella stessa sera con Edoardo Bennato, con Raffaele Cascone, che è stato un altro di questi del gruppo degli speakers di Per voi giovani, che hanno in qualche modo lasciato un segno nell'esperienza di tutti quanti in quegli anni, che erano i primi anni 70, cominciavano a scoprire sull'onda di quella che allora si presentava come una nuova musica, delle nuove istanze, delle nuove possibilità. È una realtà legata al, più che altro al mondo giovanile, che forse i nostri ascoltatori più avanti in questo momento nell'età non possono condividere perché non ne hanno avuto esperienza diretta, ma sappiano loro, questi nostri amici che sono tanti in tutta Italia, tantissimi che ci ascoltano, che magari adesso hanno, non lo so, dai 50 anni in su, e sono veramente tanti, come tantissimi sono quelli che ci ascoltano dai 50 anni in giù, praticamente la Recapacina è una radio per tutti, anche i bambini lo sanno, dice persino un noto jingle, se è vero, no? Ecco, sappiano tutti che molta gente ha vissuto realmente e sinceramente dei momenti dove la ricerca, la tensione per una ricerca spirituale, si può dire in un certo senso, anche se con un'accezione molto larga e generosa, era la cosa più importante che sembrava si potesse vivere nella vita. Poi le varie esperienze, le vari riscontri, il successo di qualcuno, le disgrazie di qualcos'altro, quelle che complessivamente sono le trappole dell'esistenza in senso conoscitivo, cioè l'illusione, magari ha depistato molti che si ritrovano a pochi anni di distanza, forse 10, forse 15, forse per alcuni 5, per altri 20, a vivere delle parti e delle situazioni che soltanto negli anni della gioventù magari erano proprio quelle che avrebbero rifiutato o che stavano combattendo per muovere in senso diverso. Questa è una specie di contraddizione che vivono in molti, purtroppo, e che noi invitiamo tutti a togliere. Perché se è vero che chiunque nella sua vita ha dei momenti così di lirica interiore, dove la cosa più importante sembra soltanto il capire, il conoscere, l'esistere, l'avere questo tipo di percezioni reali, appaganti, che fanno sensata l'esistenza, è vero che molti anche si adagiano e si accontentano, ahimè purtroppo, a volte, di vite, quelle che stanno vivendo, che non sono affatto le vite che sognavano di vivere. E questo non significa che bisogna continuare semplicemente a sognare, significa che bisogna pretendere per se stessi il massimo, nel senso che abbiamo il dovere di puntare in alto e non dobbiamo accontentarci di un'esistenza che ormai abbiamo accettato in modo insoddisfacente e aspettiamo semplicemente che giorno dopo giorno si avvicini e si presenti a un certo punto una parentesi che possiamo chiamare fine. Non è che si debba aspettare la morte, così tanto non può cambiare niente, può cambiare tutto in ogni momento, perché la cosa che deve cambiare è sostanzialmente la coscienza, l'attitudine con la quale ci mettiamo davanti alla vita, davanti all'analisi della realtà e delle circostanze. Ognuno di noi che abbia 60, 70, 40, 20, 10, 15 o 80 anni è in realtà una persona eterna. E queste acquisizioni di età ci portano fuori dalla nostra vera personalità, il nostro esistere reale è eterno, è fuori dal tempo. Ma chi l'ha detto che tu hai 70 anni? Tu sei un essere spirituale eterno, sei in giro da milioni di vite. Forse ora sei una nonna o un nonno, oppure sei una persona anziana che vive da solo. Ma quante altre volte sei stato giovane, non soltanto in questa tua gioventù? E chi l'ha detto che tu hai 15 anni o 16 o 20 e che sei un giovane? E chi ha detto che lo resterai per sempre? Sei già stato innumerevoli volte un vecchio, un padre o una madre, ora sei un figlio o una figlia forse. E chi l'ha detto che non ci sono tutte queste esperienze possibili per tutti? Sono possibili per tutti. E chi l'ha detto che si può benissimo usare violenza agli animali, tanto non conta, eh? Tu sei già stato animale con probabilità grande, se continui a usare questa disattenta violenza verso gli animali tornerai pure ad esserlo. E allora ecco che chi oggi, chi di spada ferisce, di spada perisce, vecchio proverbio che raccoglie da sempre la saggezza che si srotola nel tempo di bocca in bocca. Questo è il modo con cui si tramanda la conoscenza. La tradizione dell'antichità è stata per lunghi secoli orale e poi è diventata scritta. ma comunque parte sempre, e dall'alto parte, non parte mai dal basso. Quello che è la scuola dell'esperienza, in realtà è la scuola che l'esperienza nel tempo ha saputo selezionare alcune visioni, alcune realizzazioni, che vengono sempre comunque da indicazioni superiori. Dio, Krishna, la persona suprema, Dio con ogni altro nome tu voglia chiamarlo, Dio come in ogni altra tradizione, ha comunque sempre lasciato delle istruzioni precise. La persona suprema non si è manifestata soltanto su questo pianeta, non ha mandato per quei pochi esseri che hanno il privilegio di vivere la forma umana su questo piccolo pianeta, la Terra, ha speso tutta la sua creazione per insegnare qualcosa a poca gente, ha progetti molto più grandi la persona suprema, ha i progetti reali, ha quelli dell'esistenza completa, dell'eternità, dello spazio infinito. Ah, quante domande, eh? Quando la sera si guarda il cielo in alto, e quante sere abbiamo vissuto e visto di spazi infiniti sopra le nostre teste, di finestre aperte negli universi che non sono solo alti e profondi, ma che ci fanno sentire la grandezza dell'immensità interiore che può essere vissuta da ognuno di noi. Ecco, se allora adesso chiudi gli occhi per un attimo, se stai guidando non chiuderli, mi raccomando, ma prova a immaginare o a ricordare questi momenti che sono dell'esperienza di tutti, che sicuramente anche tu hai vissuto, quando in mezzo a una grande natura ti sei sentito un piccolo uomo o una piccola donna. Ecco, in quei momenti, che sono i momenti più reali, che ci riportano a misura di quanto siamo in questo momento, piccole persone che hanno bisogno di conoscere di più e di capire di più, in quei momenti abbiamo il dovere di ricordarci che il nostro preciso impegno deve essere quello di conoscere, aiutare noi stessi e aiutare gli altri. E se stiamo facendo qualcosa ora in questo senso, siamo sulla buona strada. Altrimenti, anche se hai preso le indicazioni giuste, tra poco arriverai, se sei in macchina, per ipotesi, la strada, ahimè, è sbagliata. Perché dove arrivi e da dove sei partito? E domani, e dopodomani, e il giorno dopo, e l'anno prossimo, e tra 2 anni, e la prossima vita, cosa succede? Che ne è di te? Che ne è di me? Possiamo veramente darci e cercarci qualche sicurezza in più? Questo è il nostro dovere, il dovere di tutte le persone coscienti che lavorano con intelligenza, con umiltà e con senso del dovere, a non dichiarare persa la battaglia contro l'ignoranza, perché il nostro vero nemico è l'ignoranza, e perché la nostra vera ignoranza è pensare che non abbiamo amici, che non abbiamo un amico soprattutto, che è capace di illuminare con la sua presenza non soltanto il nostro cuore e la nostra visione, ma anche gli spazi della nostra giornata. E questo è il senso e la missione che noi di Radio Krishna Centrale viviamo in modo più o meno fortunato. Non sempre siamo capaci di comunicare qualcosa. I migliori tra di noi a volte hanno la fortuna di saper usare quell'intelligenza che è Krishna stesso in ognuno di noi, e forse riescono a toccare a vari livelli nel profondo qualcuno. Noi ringraziamo tutti i nostri amici ascoltatori per la loro partecipazione attenta, e ringraziamo tutti anche per quanto hanno fatto, fanno e vorranno fare per aiutarci a crescere in questo che sentiamo un servizio di utilità pubblica, e che vuole diventare veramente una finestra aperta sulla possibilità migliore per tutti indistintamente. Fuori dal tempo. selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Conoscenza spirituale. La conoscenza spirituale è fatta di notizie che veramente ci portano piano piano ad un equilibrio. È vero che da un lato si dice ed è scritto nelle scritture che anche chi canta una sola volta il Mahamantra di Krishna, anche per errore, così senza sapere cosa sta dicendo, fa un grande avanzamento spirituale, si purifica. Addirittura è detto anche chi lo dice, anche chi dice e nomina il nome di Krishna, anche in modo offensivo, ottiene sempre una purificazione. Però è anche vero che la persona intelligente, se sa che per arrivare in un posto ci sono due o tre strade o quattro o miliardi, certamente cercherà di prendere la più corta, quando soprattutto si tratta di strade che le altre che non hanno un gran panorama. In effetti c'è chi potrebbe dire: ma io mi voglio godere la vita prima. Beh, bisogna dire che magari non ce lo ricordiamo al 100%, però se ci pensiamo bene forse un pochino sì, ma questo panorama, questa panoramica della vita l'abbiamo già vista miliardi e miliardi di volte, e l'abbiamo vista affacciata dai finestrini, dagli occhi di diverse specie, e a dire la verità abbiamo fatto sempre le stesse cose, è vero? Mangiare, dormire, riprodursi, difendersi, sempre scontando, sempre tirando le somme ad attività ormai che si vengono ad accumulare e si tirano i conti, però si fanno ancora debiti e debiti e debiti con qualche credito ogni tanto. Quindi è vero che tutti siamo incamminati per il ritorno a Krishna, tutti quanti siamo devoti di Krishna, questo è innegabile. Però è anche vero che bisognerebbe fare un po' prestino a ritornare da Krishna. Basta con questa sofferenza? La legge del karma è veramente intransigente, eh? E se noi perdiamo tempo, chissà, magari diciamo in fin di vita, ma dov'è? Quand'è? Quando è il fine della nostra vita? Non lo sappiamo. E così, senza magari nemmeno accorgersene, ci ritroviamo chissà in quale corpo. E allora lì non abbiamo nemmeno più la possibilità di dire aspettiamo un attimo. Il karma, la reincarnazione. Vita dopo vita. Sentiamo qualcosa a questo proposito. Da Praladesh Das. Della reincarnazione, eh? Allora cominciamo da Peter, cosa ne pensi, cosa hai sentito, secondo te c'è, non c'è, è vero, non è vero, insomma, quello che esprimi di un po'. Guarda, io non so più a che cosa credere. Ecco, te lo dico. Non sei solo, no? C'è molta gente che... Io non saprei, proprio. Non hai nessuna idea? Non ho nessuna idea di imposta. Potrei dire anche lo stesso. Tu come la pensi? No, io sono tanto confusionata. Cioè, nel senso che posso crederci e anche non crederci. Cioè... Non lo so. Non è, diciamo che non avete una conoscenza abbastanza approfondita sull'argomento. Beh, come prima domanda era abbastanza decisa, no? Cosa ne pensate della reincarnazione? E naturalmente questi giovani hanno espresso il loro parere. Non ne pensano molto perché in effetti non ne hanno molta conoscenza. Questo punto della reincarnazione è un punto molto importante che vale la pena di essere spiegato. Adesso non è che io voglio spiegare la reincarnazione perché ci si può mettere anche poco, però ci si può mettere anche molto perché è una cosa abbastanza complessa, no? Che comunque la reincarnazione dovete sapere che è una cosa estremamente, cioè molto legata, molto con grandi connessioni con la legge del karma di cui parlavamo prima, perché infatti è proprio questa legge del karma che ci costringe a rinascere. E a rinascere appunto perché ognuno di noi quando muore rinasce, anzi non è che da dire se magari uno pensa potesse rinascere, se potesse rinascere, ecco, perché uno pensa che non rinascerà mai, invece no, noi ve lo garantiamo che la cosa ordinaria che succede dopo la morte è che uno rinasce, cioè uno è costretto a rinascere dopo morto. Mentre invece la cosa straordinaria, ma proprio la più straordinaria di tutte, è che uno dopo morto non rinasce più. Perché non rinasce? Perché se ne torna nel mondo spirituale, dove appunto lì non c'è né nascita, né malattia, né vecchiaia, né morte. Comunque, tornando alla reincarnazione, questi giovani non hanno molte idee sulla reincarnazione, non ne sanno nulla, è una cosa solo sentita dire in giro, se ne è sentita parlare, pochi la conoscono, perché? Ecco, noi abbiamo fatto delle indagini, diciamo così, no? Delle indagini storiche, per capire come mai della reincarnazione in Occidente non se ne è mai parlato molto, o pochissimo, o per nulla. Mentre invece in Oriente la reincarnazione è una cosa fondamentale nella filosofia della vita di tutti i giorni delle persone, non solo in India ma anche in Thailandia, non so, in Siam, che poi è la stessa Thailandia, cioè in tutta quella zona indonesiana, anche in Cina, anche in Giappone, no? La reincarnazione è un fatto molto preciso e definito, tutti ci credono, perlomeno diciamo la cultura tradizionale la spiega molto chiaramente come una realtà effettiva. Poi che magari adesso gli attuali thailandesi, indiani, giapponesi, cinesi lo accettino o meno, questo è un altro conto. Come del resto, nella nostra tradizione così cristiana, occidentale, Gesù Cristo figlio di Dio. A parte il fatto che adesso magari poi la maggior parte dei giovani pensano che Dio non esista addirittura, quindi figurarsi poi avere un figlio. Allora, abbiamo fatto un po' delle indagini e abbiamo scoperto che molto tempo fa, ai primi anni della Chiesa Cattolica, c'era un filosofo che si chiamava Origene o Origene, adesso non so bene come si dice, un filosofo greco, che però appunto era già un filosofo cristiano, il quale parlava nei suoi scritti del passaggio dell'anima eterna in forme differenti, in differenti corpi. Quindi questa era evidentemente la reincarnazione di cui parlava il nostro Origene. Ma il nostro Origene evidentemente era nato nel momento sbagliato, nel posto sbagliato e soprattutto la sua filosofia la stava propagando nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Evidentemente c'erano dei motivi dietro a quello che successe dopo. Successe che a Istanbul, vale a dire a Costantinopoli, Giustiniano, imperatore romano, indisse un concilio nel quale stabilì che chiunque avesse parlato della mitica, disse così, della mitica trasmigrazione dell'anima nei vari corpi sarebbe stato considerato un eretico e quindi sarebbe stato passato per le armi. quindi evidentemente la cosa era abbastanza pesantina, no? No? Se uno semplicemente perché parla di reincarnazione al giorno d'oggi lo passassero per le armi, lo fucilassero oppure o torturassero, lo scambiassero per un eretico, sarebbe un po' pesantino, cioè, in fin dei conti. Però dovete sapere che allora si era nel Medioevo, e allora non era mica era proprio l'inizio del Medioevo, la situazione era proprio pesantina, no? Non c'era questa, diciamo, libertà d'espressione che c'è adesso, e non c'era neanche una certa libertà religiosa. La gente era abbastanza, aveva un po' i paraocchi come i cavalli da tiro, eh? La cosa buffa, diciamo così, di questo concilio, buffa insomma, particolare di questo concilio, è che questo concilio fu tenuto a Costantinopoli e non a Roma, e il Papa non era presente. Quindi evidentemente fu una specie di macchinazione così per mettere a tacere alcune cose, in particolare poi questa reincarnazione. Probabilmente questo perché se la teoria della reincarnazione avesse preso piede nella cristianità di allora, lo Stato avrebbe avuto grosse difficoltà nel controllare i suoi sudditi, i suoi subordinati, perché vi ricordate che ai tempi dei Romani c'era la cosiddetta crapula, era abbastanza diffuso il modo di vivere così alla satirico, no? Di Fellini, cioè vivere proprio fregandosene di tutto, vivere tranquillamente, godendosela e basta. Ora, se la filosofia del fatto che ognuno di noi rinasce sicuramente veniva passata e diffusa, allora la gente sarebbe diventata ancora più dedita alla gratificazione dei sensi, quindi sarebbe stato ancora più difficile per lo Stato controllare i suoi sudditi, no? Quindi questo avrebbe creato un grosso problema sociale sicuramente. Poi magari c'erano state anche altre ragioni, chi lo sa, magari l'origine era qualcuno che aveva qualche storia con qualcun altro, chi lo sa, queste cose qua a noi non ci sono giunte. Però sai, comunque ci è giunto che appunto Giustiniano, imperatore romano, disse che basta, non si deve più parlare di reincarnazione, è un'eresia, chiunque ne parla lo facciamo fuori. E da allora evidentemente tutti si sono ben guardati di parlare di queste cose. Poi figurarsi quando c'è stato il Medioevo, quello proprio grosso, con l'Inquisizione, eccetera, insomma lì c'erano tutti paura, insomma, se un attimino diciamo una cosa sbagliata, qui ci tacciano di stregoneria e ci ritroviamo sul rogo. Quindi la gente andava un po' cauta. Invece in Oriente se ne parlava tranquillamente, perché si è sempre saputo che l'anima è eterna e i corpi invece no, e quindi l'anima, se non si è liberata dalla natura materiale, è costretta a rinascere costantemente in un corpo dopo l'altro. Quindi questa in breve, diciamo, la storia del perché la reincarnazione non è molto nota qua in Occidente. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. La coscienza di Krishna è proprio meravigliosa. Ed è una cosa che potrete sperimentare tutti, che appena si diventa anche solo un po' coscienza di Krishna, di Dio, allora tutte le cose, le cose che ci circondano, i fatti, la musica, le canzoni, si vedono filtrati sotto, così, con una nuova luce, eh? Come se si fosse messo degli occhiali. O più precisamente, come se si fosse pulito le lenti. Infatti questa purificazione che viene dal intraprendere la vita spirituale, la coscienza di Krishna, è proprio come pulire lo specchio, uno specchio. Man mano tutto si vede più chiaro. Cambia la vista, cambia anche l'udito. Cambia, si purifica il modo di capire le cose. e i devoti di Krishna si sono sempre divertiti a così ascoltare le canzoni, ad esempio. E capire anche in questa espressione, come un testo di una canzone, il messaggio inconscio, diciamo ormai, che viene dall'anima. Certe canzoni l'hanno di più, certe canzoni l'hanno di meno, storie di amori, e certe canzoni sono dichiaratamente coscienti di Krishna. Sentiamo Manuna Das, da un suo speciale Italia, commentare una famosa canzone. La canzone di oggi, vogliamo presentarvi una canzone di oggi che non è esattamente un disco ISKCON del Movimento per la Coscienza di Krishna. Ecco, un'altra cosa che volevo specificare, magari è fuori tema. ISKCON, la famosa parola ISKCON, è il termine legale con la quale ci si riferisce alla International Society for Krishna Consciousness, o il termine inglese che si riferisce all'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, nella traduzione il Movimento Hare Krishna. Judge, good kind judge, send me to the electric. Ecco, nel 1970, per l'esattezza, se non vado errato, George Harrison, uno dei componenti dell'allora disciolto complesso dei Beatles, ha inciso una canzone che si intitola My Sweet Lord, Mio Dolce Signore. Ecco, qualcuno si sarà chiesto per quale motivo George Harrison ha fatto questo disco con che aveva un sapore vagamente religioso, tant'è vero che alla fine di questo disco si sente dire Alleluia, si sente dire Hare Krishna, si sente dire Gurudeva, si sente dire tante parole che suonano strane, orientaleggianti. È perché a quel tempo George Harrison conosceva ed apprezzava il Movimento per la Coscienza di Krishna ed ha inciso questa canzone su ispirazione del maestro spirituale di questo movimento, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ecco, mio dolce signore, è perché Sri Krishna, come diceva George Harrison in questa canzone, è senz'altro una persona così dolce, così attraente da averne una relazione, da parlarne, da amare in ultima analisi, che è senz'altro molto dolce, come diceva George Harrison, sebbene molto difficile, io vorrei tanto conoscerti, io vorrei tanto amarti, io vorrei tanto servirti. Sir, I love that girl so dear. Ecco, magari con la premessa che My Sweet Lord, questa canzone, si riferisce a Sri Krishna, la suprema persona, Dio, possiamo quindi sentire My Sweet Lord. Però attenzione, alla fine dice Hare Krishna. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Senz'altro l'attività che distingue più di ogni altro, diciamo, la forma umana è fare domande. Certamente questo determina e proprio fa vedere che così che qualcuno ha intelligenza e che la sta usando. Naturalmente si sta parlando di domande, domande a carattere spirituale. Naturalmente la ricerca in genere denota una certa intelligenza, però abbiamo visto che la ricerca scientifica, ad esempio, se mal indirizzata, non solo può essere uno spreco di tempo, ma può essere decisamente dannosa. Allora, la cosa più importante in tutte le vite, in ogni nostra vita, e soprattutto in questa che stiamo vivendo, è cominciare con il farsi domande spirituali. Per questo che i bambini che hanno la fortuna di così avere dei genitori che hanno già intrapreso il cammino della vita spirituale, che sono un po' coscienti di Krishna, che sono devoti di Krishna, hanno la grande fortuna di sentirsi dare le risposte a chi sono, da dove vengo, dove vado, fin dalla prima età. E in effetti queste dovrebbero essere le prime risposte alle prime domande. Dopodiché uno, sulla base di questa conoscenza, può anche dedicarsi ad altre ricerche. E sentiamo da uno speciale taglio di Mirabai Devidasi quali sono le domande che più comunemente ci si pone e ci vengono anche poste a noi qui, devoti di Krishna. Allora, adesso rispondiamo a alcune domande. Per aiutarvi a conoscere e capire meglio la coscienza di Krishna. Allora, vediamo la prima domanda. Che cosa rappresenta esattamente la coscienza di Krishna? Che opinioni deve farsene la persona comune? Allora, nella sua espressione più semplice, la coscienza di Krishna è un modo di vivere, in cui l'uomo usa tutto ciò che lo circonda, i suoi atti, parole e pensieri, per glorificare il Creatore, Krishna. La sua vita stessa diventa un atto di adorazione. È molto semplice e molto piacevole. Mm. Allora, vediamo un'altra lettera, una seconda domanda. Perché Krishna e non è il Dio che conosciamo noi? Quello che voglio dire è perché il nome di Krishna e non un Dio che è conosciuto più comunemente? Allora, la risposta è che Krishna significa l'infinitivamente affascinante. Poiché Dio affascina tutti gli esseri, viene chiamato Krishna. La coscienza di Krishna consiste nel servirlo con amore e devozione. Ci sono tanti nomi di Dio, come noi diciamo spesso da questi microfoni, ma il nome di Dio, come Krishna, è il suo nome più indicativo, descrive Dio in un modo più completo. La parola Giove, per esempio, vorrei dire un certo aspetto di Dio, anche Allah, Buddha. Ma se Dio è Dio, deve includere tutte queste qualità, la potenza, l'intelligenza. Deve essere anche naturalmente, per forza, infinitamente affascinante. E questo è proprio quello che vuol dire il nome Krishna, infinitamente affascinante. Allora, poi c'è un'altra domanda che è molto interessante, perché tante persone adesso stanno notando che c'è stato recentemente, in questi ultimi 5-6, anche un po' di più, però 8-10 anni, un influsso, un aumento delle sette religiosi che vengono dall'Oriente. Infatti queste persone dice: come spiegate il moltiplicarsi in Occidente di sette religiose, per lo più di ispirazione orientale? La risposta è che la coscienza di Krishna non è un sette, ma piuttosto l'essenza della vera religione. Ma comunque, per parlare delle sette, posso dire che le sette si sviluppano dal vuoto che il crescente ateismo ha creato nella nostra società. Il materialismo tentano di soddisfare l'uomo creando una molteplicità di oggetti destinati ad appagare i sensi, per assicurarsi un campo sempre più vasto di godimento, nega l'autorità di Dio e rifiuta le sue leggi. Ma questo tipo di coscienza finisce con minare l'anima piuttosto che soddisfarla. Quindi, approfittando dell'assenza di una vera religione, le sette tentano di sostituirsi ad essa e spegnere la sete spirituale dell'uomo. Allora, prendiamo un'altra domanda, poi conservo le altre domande per la prossima puntata di Speciale Italia. Allora, essendo che noi, detto che la coscienza di Krishna non è una setta, no? Allora, questa c'è un'altra domanda qui che dice: che posizione occupa la setta di Krishna rispetto a questo movimento generale, diciamo il movimento generale delle sette per spingere questa setta dell'uomo per la spiritualità? Allora, come stavo dicendo, che la coscienza di Krishna non è una setta, ma piuttosto è l'essenza della vera religione, accuratamente tramandata attraverso i millenni nella scrittura vedica. E questa conoscenza è stata praticata senza interruzioni fino ai giorni nostri. Questa tradizione accorda un'importanza primaria allo sviluppo spirituale dell'essere. Le sette e anche le varie fedi tradizionali non sono altro che espressioni più o meno chiare della vera religione. appaiono nel corso del tempo e poi scompaiono. Si appaiono nel corso del tempo e poi scompaiono. Ciò che rimane è il solo in grado di porre rimedio alla profonda insoddisfazione dell'essere condizionato della materia e l'amore per Dio, la coscienza di Krishna. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. bene, bene. Prima avevamo accennato alla fortuna che è nascere in una famiglia di devoti di Krishna. La fortuna grande che è essere piccoli e già sentire parlare di Krishna, di Dio. Questa è la fortuna che hanno i bambini che si trovano qua nei nostri centri. Ma così, non voglio aggiungere altro. Sentiamo, sentiamo. Krishna Premadas. Abbiamo molto tempo, però possiamo anche così fare una chiacchierata dal vivo con questi personaggi che sono naturalmente qui presenti in studio in questo momento. Ecco qua, un disco. Abbiamo dei dischi meravigliosi qui a Radio Krishna Centrale, specialmente durante il corso di questa speciale Italia, noi facciamo ascoltare delle situazioni veramente inedite. Sappiamo che siete ancora all'ascolto, non andatene perché adesso sta arrivando il bello, poi dopo ci sarà qualcosa di ancora più bello. Che c'è? Funziona? Vediamo cosa ci hanno messo sul piatto. Peccato che il disco gira a 45 giri, Proviamo ancora. Ah, eccolo qua, questo è il suono del presente, Il suono del presente, pensate, riflettete su questa immagine, il suono del presente. La Sia Rasa, si accomodi presso la sedia elettrica che disponiamo qui. Abbiamo una sedia che va dai 220 alle 4000 volt. Abbiamo ancora 20 minuti, non c'è molto tempo, per così fare una piccola chiacchierata dal vivo. Normalmente noi intervistiamo gli ospiti, così non è male ogni tanto intervistare anche i devoti. La cuffia, questa sconosciuta, abbiamo una bellissima cuffia di lana, perché adesso fa freddo. Bello questo disco, eh? Io preferisco questo roccaccio duro degli anni 50. È responsabile della nostra scuola, la grande gurukula di Villa Vrindavana. È un compito arduo, un compito veramente difficile, Però sempre meno difficile di coloro che gestiscono le scuole all'esterno del movimento, perché infatti questi bambini sono veramente speciali. La specialità consiste nel fatto che naturalmente questi bambini crescono in un'atmosfera diversa, meno congestionante, meno lobotomizzante, meno condizionante da tanti punti di vista, cioè imparano a vivere una vita serena, tranquilla, all'insegna di Krishna, Dio la persona suprema. Tutti noi, ma insomma questo Krishna è dappertutto, lo mettete? Non è che lo mettiamo, lui è dappertutto. Vediamo un po', adesso dobbiamo scoprire che numero è quel microfono lì, Ecco il microfono lì. Forse è proprio quello. Già, e abbiamo indovinato al primo colpo. Sì, Pandu. Pandu, che non è il nome di una macchina, della Fiat, ma... No, Pandu è... Quella conoscete la panda, Pandu? Quella è la panda, Pandu è un nome molto, allora, molto ecco antico. A voi Pandu Putra. Hare Krishna a tutti, gli ascoltatori, qui a Villa Vrindavana, con Krishna Prema al mixer. Abbiamo Dasya Rasa. Mi hanno acchiappato al volo. Mi sembra giusto. Sono di passaggio. Siamo tutti di passaggio, Pandu. Dimmi, come va la scuola? Come va la scuola? La scuola va bene, attualmente senza insegnanti, senza i bambini sono liberi. Bambini liberi, pericolo. Ma come mai? Oggi c'è qualche particolare circostanza? Cosa c'è? Qualche festa? Cosa no, c'è? Nessuna festa. Nessuna festa. Abbiamo appena finito di fare colazione, adesso andiamo a scuola. Allora, cosa consiglieresti alle persone che hanno dei bambini che vorrebbero mandarli a una scuola diversa, Pandu? Una scuola diversa sarebbe la nostra scuola. Già! Cosa c'è? La nostra scuola. Cosa c'è di diverso? Tutte le altre scuole sono standard, diciamo, uguale. Questa qui è un po' diversa. È una scuola dove, oltre a insegnare a leggere, a scrivere, matematica, scienza, diciamo, materie accademiche, si insegna la cosa più importante, che è quella che... diventare coscienti di Dio. Già. Allora, come vanno i nostri bambini? I bambini vanno bene, ma i bambini di fatto vanno sempre bene. Se vanno male è colpa di qualcun altro, non sono i grandi, dici che... Esatto, sono i grandi che li fanno andare male. Vabbè, infatti questo è un grande ospedale, cari signori, in cui i malati sono i grandi, chiaramente, perché i grandi sono più condizionati i bambini dalla vita precedente. Adesso è naturalmente i grandi che hanno delle responsabilità e vogliono cambiare loro stessi e nel frattempo aiutare a cambiare anche ai piccoli che arrivano qui a far parte della nostra comunità. I bambini di fatto sono innocenti, se vogliamo dire. Innocente! Perlomeno, cioè, a parte il karma che si portano presso... Ecco, diciamo che cos'è il karma, Pandu. Il karma, magari Krishna Prema Das lo spiega appena... Due parole. Il karma sono la reazione alla nostra attività. Già! Ogni azione c'è una reazione, questa reazione può essere... può essere, diciamo, subito, sta maturando, può essere matura, quindi uno deve avere questa reazione. Deve manifestarsi. E poi... I bambini in questa vita non hanno molta contaminazione da questo tipo di vita, quindi diciamo che quello che la società, i genitori, gli insegnanti gli propongono con il loro esempio, con la loro cultura, questo è quello che loro assimilano. Quindi in ultima analisi loro crescono in una maniera non molto buona, non è tanto colpa loro, ma è, come si dice, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Esattamente, il brutto esempio, Allora, per fare crescere dei bambini veramente sani, e materialmente e spiritualmente, occorre che i genitori, gli insegnanti, eccetera, siano coscienti di Krishna, di Dio, la persona suprema. Jai! Vabbè, allora... Ringrazio Krishna Prema che mi ha dato questa opportunità. Sempre al servizio. Ci vediamo domenica. Ogni domenica i bambini sono qui per voi, che vi aspettano. Sono pronti a cantare in nome di Dio e servirvi anche del buon cibo. Jai, Haribo, Pandu. Sai che i bambini mi aspettano. Hare Krishna a tutti, Haribo. Haribo. Avete sentito, la voce è di una persona che è responsabile, un devoto che è responsabile della nostra Gurukula qui a Villa Vrindavana, cioè la scuola, la Gurukula, la scuola del guru, la scuola del maestro spirituale. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Abbiamo due speaker, che sono come due calamite. Chiunque passa, non passa, alla fine deve fermarsi obbligatoriamente, perché il loro invito è così calamitante, che anche se non vuol dire di no, deve per forza venire qua e parlare. Ma questo è bello, perché quando si parla di Krishna è sempre la percezione del parlare. Senti, abbiamo scoperto... Io vorrei fare un chiarimento riguardo prima, perché dai. Krishna Prema è sempre così molto entusiasta, no? E lui è pronto a glorificare tutti, responsabili... Che è successo? Ma di fatto io non sono il responsabile. Non sei responsabile? No, sono semplicemente un piccolo insegnante dei bambini. Piccolo insegnante, insomma, dai. Di la verità, ecco, vedete, i demoti sono sempre umili. Quindi se qualcheduno magari vuole mandare qualche bambino, vuole far conoscere ai bambini la coscienza di Krishna, eccetera eccetera, il responsabile sono io, dovete chiedere di qualcun altro, magari di Krishna Prema, che potrà indirizzarvi sicuramente al giusto responsabile. Senti, Panduputra, dimmi una cosa, Pandu Putra, che cosa facevi tu prima? Beh, diciamo prima circa 10 anni fa. Tu sei da devoto da 10 anni, incredibile. 10 anni fa, diciamo, lavoravo. Sì, ma che cosa facevi? Dici. Tipografo! Tipografo stampatore. Stampavo tante cose, privi di Krishna. Adesso invece ti occupi dei bambini di Krishna. Ecco. Sono i nostri meravigliosi libri. Oh, i libri. So, Panduputra è un grande esperto distributore di libri, eh? Io ho imparato molto da lui, dalle sue racconti trascendentali da sera quando tornava dopo una giornata di distribuzione. Quindi Panduputra è una persona che potreste anche incontrare per la strada con i libri, e mi raccomando, fermatevi ad ascoltare quello che ha da offrire, perché è molto importante, come questo Mahamantra. Allora, ecco, se ne va di nuovo, vabbè, insomma, è così, i devoti sono così impegnati, che naturalmente hanno sempre il tempo che è loro amico, non è mai nemico. Noi siamo stati cresciuti dell'idea che il tempo è il nostro nemico, perché tutti coloro che si identificano con il corpo vedono che il tempo ha un'azione veramente distruttiva sul corpo, loro pensano istintivamente che il tempo è un nemico. In realtà invece il tempo è un nostro carissimo amico, che non è altro in effetti una manifestazione di Krishna, la persona suprema. Si tratta solo di capirlo e di usarlo e di farsi usare nella maniera giusta. Che dici, Dasya Rasa, Sì, in effetti il tempo distrugge l'illusione, quindi l'illusione non è altro che creatrice di sofferenza. Quindi ben venga il tempo che distrugge l'illusione. Quindi sta per arrivare il tempo della coscienza di Krishna. Questo è il tempo giusto. Esatto. Il tempo giusto per tutti voi di diventare coscienti di Krishna, anche solo e soltanto ascoltando la radio. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. E diciamolo pure che RKC è veramente una radio fantastica, meravigliosa. Tutte le glorie a RKC, Radio Krishna Centrale. In questi anni sono state fatte tante glorificazioni a RKC, non solo dai devoti di Krishna, anche dagli amici che ascoltano, dai devoti che sono nelle loro case, che veramente non possono più fare a meno di Radio Krishna Centrale. E certo, RKC rappresenta i devoti, gli Shastra, anche il maestro spirituale. E cosa vuoi di più? Guru, Shastra e Sadhu. Gli elementi essenziali per praticare la vita spirituale. Il capitano, la barca, i venti favorevoli per attraversare l'oceano dell'esistenza materiale. Siete veramente fortunati voi che state ascoltando in questo momento Radio Krishna Centrale. Ma sentiamo alcune glorificazioni a RKC fatte da Mirabai Devidassi. RKC, Radio Krishna Centrale. Un nome, un radio di non scordare. Con con RKC uno ha trovato una vera amica. Radio Amica. Una radio che resta con voi, nel vostro cuore, nella vostra mente. Una radio indirizzata alla vostra anima. Indirizzata a voi. Remember the name. Ricordate questi nomi. RKC. Indimenticabile. Radio Christian Centrale è la radio per movimento, per la movimento internazionale, la movimento, il movimento, oh, che pasticci. Comunque, Radio Christian Centrale è la radio per il movimento, per la coscienza di Krishna. Un movimento internazionale che va oltre Italia. Comunque, la coscienza di Krishna è dappertutto, a Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina, Giappone, Inghilterra, Sudafrica, e specialmente negli Stati Uniti, Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas, New York, Chicago, Philadelphia, St. Paul, Minnesota, Detroit, Florida, New Jersey, in Canada, Montreal, insomma, la coscienza di Krishna è universale, trascende i confini della nazionalità, della lingua, colore del corpo. Remember, la coscienza di Krishna. Remember, il nome di Dio, Krishna. Remember my name. Ricordate il nome di Dio. Il nome di Dio, il nome di Krishna è un vero rifugio. Possiamo trovare dentro il nome di Dio tranquillità, conoscenza, troviamo la felicità. Questo non è promesso vuoto, no? Se voi cantate i santi nomi di Dio troverete il vero rifugio. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Materia in putre conservazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne. Chi mangia la carne, chi mangia questi elementi come pesce, carne, uova, sono queste violenze, questo tipo di alimentazione aiutano l'uomo ad crescere la sua insensibilità e mancanza di rispetto verso la vita. Perché la carne in sé richiede violenza, quando uno mangia la carne mangia violenza. E come voi avete probabilmente sentito che uno è quello che uno mangia. Non possiamo pretendere che se uno mangia la carne è lo stesso come mangiare un pezzo di frutta, una mela per esempio. Quindi la coscienza della persona è senza dubbio influenzata da quello che lui mangia, sue azioni, sui pensieri. E se uno pensa che mangiare la carne non è violente, se uno agisce in maniera in cui sopporta queste violenze contro gli animali, naturalmente la sua mente sarà condizionata di accettare questa violenza. E questo non è la stessa, non è la stessa come le persone che non mangia la carne. È stato provato anche scientificamente che chi non mangia la carne è meno violente, è più compassionevole, più sensibile verso gli altri esseri viventi. Sappiamo, se uno non mangia la carne, non ammazza nessun essere vivente, neanche una formica, sarebbe molto difficile per questa stessa persona di ammazzare, per esempio, un uomo. Ma chi ammazza maiali, mucche, altri animali, è molto facile per loro di fare quel passo in più per ammazzare un uomo. C'è già questo gusto di sangue, questo gusto di violenza, questa mancanza di rispetto per la vita. Quindi non è lo stesso di dire che uno può arrivare a un certo punto di sensibilità e non mangia la carne e poi da quel punto sviluppa sensibilità. Non funziona così. Uno deve praticare un certo modo di vivere per avere un certo modo, un certo tipo di coscienza. Uno non può impegnarsi in certe attività che sono completamente opposte ad uno che è cosciente di Dio e può avere la speranza di essere cosciente di Dio lo stesso. Sì, certamente avrai un certo tipo di coscienza, ma proprio coscienza di Dio, no. Benissimo, allora mi sembra chiaro? Cominciamo con rispettare tutte le entità viventi e poi, mi raccomando, continuiamo. Però noi non continuiamo più, almeno io non continuo più, il nostro programma è finito, il nostro tempo è finito. E anche se siamo fuori dal tempo. Benissimo, abbiamo sentito ancora tante cose coscienti di Krishna, tanti argomenti interessanti. E con questo vi saluto, a risentirci alla prossima puntata. Hare Krishna, arrivo!